24. Storie di star. Un grande italiano. Cinico, un personaggio estremamente distaccato. Amico di trasgressivi, di rivoluzionari. Di Budella era un reazionario, ecco. È un uomo di potere. Lui ha sempre adorato le donne. È un uomo pieno di paure e di fobie. Era molto attento ai suoi interessi economici. Molto. È un uomo estremamente prudente. È Stravinsky ante litteram. È di una straordinaria sinteticità e modernità. È un genio. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Gioachino Rossini. Maestro della musica, genio precoce, con il Barbiere di Siviglia, la Gazzaladra, la Cenerentola, Semiramide e infine Guglielmo Tell, è entrato nella storia. Rossini compone decine di opere liriche senza limiti di genere. Ama la farsa, la commedia, la tragedia, eppure dopo 20 anni di incontenibilità creativa smette improvvisamente di comporre per il teatro. Per anni scrive soltanto per se stesso e gli amici, un mistero mai chiarito, come misteriosa è la sua personalità. Schivo, collerico, facile agli amori, creativo ma ostile all'innovazione tecnologica. È nato nel 1792 e morto nel 1868. La vita di Rossini attraversa l'età di Napoleone, la restaurazione, le lotte per la libertà e l'Italia unita. Eppure il musicista è il primo ad avere un'idea europea di arte. Aprile 1796. Ha inizio la campagna d'Italia di Napoleone. Le sue imprese segneranno tutto il secolo. All'epoca Gioachino Rossini ha 4 anni. Suo padre Giuseppe suona la tromba nella banda cittadina, nelle orchestre di provincia, ma è un fervente filo francese e per questo finisce più volte dietro le sbarre. Spetta alla madre, Anna Guidarini, mantenere ed educare il figlio. Anche lei ama la musica. Cantante autodidatta, si ingegna a trovare 1000 piccole scritture e spesso porta il figlio con sé sulla scena. In fuga dalle persecuzioni politiche, la famiglia Rossini lascia Pesaro per Lugo, dove Gioachino continua a studiare musica con i canonici Malerbi. Nelle loro biblioteche scopre le partiture di Haydn e Mozart. Ce ne parla il direttore d'orchestra Zedda. Da questo incontro con i grandi compositori Haydn, Mozart, Beethoven, eccetera, Rossini ha preso moltissime cose. Prima di tutto il senso strumentale. Una presenza sinfonica e il senso della forma e della costruzione. Difatti i suoi spunti melodici sono di natura puntilistica, di natura nervosa, quanto invece la tradizione operistica italiana voleva la frase melodica sensuale, come si può dire, espansa. Nel 1804 Gioachino Rossini ha 12 anni. Insieme ai genitori si trasferisce a Bologna. Qui entra al liceo musicale dove studia cembalo e composizione sotto la guida di Stanislao Mattei. È un genio precoce. A 14 anni viene nominato professore di canto all'Accademia Filarmonica della città. La grande occasione arriva nel 1810. Chiamato all'ultimo momento per una sostituzione al Teatro Giustinianei di San Moisè, compone la farsa La cambiale di matrimonio. 100 gradi latitudine, 120 longitudine, dal nord-est al sud-ovest, poi l'elevazione del polo, la linea delle terziere, l'equatore con le sfere. Detta già con la cambiale di matrimonio, poi con le altre 4 farse scritte per il San Moisè, un'architettura musicale completamente nuova. Questo aspetto della novità di Rossini poi trionfa anche nella scrittura musicale, il ritmo incalzante, la scrittura vocale di una sicurezza prima di allora mai sperimentata dagli altri compositori. Era Bruno Cagli, critico musicale. È l'inizio di un'attività convulsa, un crescendo di impegni e di scrittura che porta il giovane Rossini a viaggiare senza tregua. Bologna, Ferrara, Venezia, Milano. In 2 anni Rossini compone 7 opere. La velocità della sua scrittura diventa leggendaria. Secondo Stendhal, suo contemporaneo e biografo, Rossini poteva creare un'opera stando in carrozza, a letto, in piedi e impiegando 2 settimane o anche solo 10 giorni. Nella primavera del 1812 è chiamato alla Scala di Milano. Ha solo 20 anni ed è protetto dalla bella cantante Marietta Marcolini. Nel suo epistolario, George Byron racconta di Rossini, inseguito ovunque da ammiratori e ragazzine in delirio. Una celebrità, come spiega il biografo Vittorio Emiliano, da rockstar dei nostri tempi. Sì, i compositori che i cantanti di quel periodo, del periodo d'oro del melodramma, del secolo d'oro del melodramma, sono come dei rockstar. C'era una passione che era borghese ma anche popolare, attenzione, platea era fatta di panche, non di poltrone. I posti privilegiati della nobiltà, della borghesia ricca erano i palchi, dove si faceva di tutto, poi si giocava, si mangiava, si beveva, si amoreggiava anche. A Milano Rossini, ospite dei salotti più esclusivi, scopre un mondo a lui sconosciuto, la ricca società borghese aristocratica. Ma in questo periodo che ha le prime crisi depressive, per colpa di queste, comincia a consegnare in ritardo le sue partiture, rispettando però il contratto con il Teatro alla Scala. La Pietra del Paragone, che debutta il 26 settembre del 1812, è un trionfo. Ottiene 50 repliche. Su Mix 24, con la storia di Gioacchino Rossini, continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia di uno dei più grandi maestri italiani, Gioacchino Rossini. Nel 1812 l'esordio alla Scala di Milano con la Pietra del Paragone, che lo porta all'apice del successo. Ma lo stupore è ancora maggiore quando dopo solo pochi mesi Rossini propone Tancredi. Ce ne parlano Bruno Cagli e Vittorio Emiliani. La Pietra del Paragone ha però un elemento che l'ha predestinata a essere meno vitale delle altre opere, malgrado l'immenso successo che ebbe. Il libretto era settecentesco. L'obbligo di dare a tutti i cantanti un tot di arie pesa su questa meravigliosa opera che è la Pietra del Paragone. Rossini quasi subito si libererà di queste costrizioni e già nel Tancredi procede con una assoluta sicurezza. La cosa che pare straordinaria è che lui possa, a distanza di pochi mesi, creare un Tancredi con finale lieto e finale drammatico, e pochi mesi dopo compone l'Italiano in Algeri, l'opera buffa più straordinaria forse di quel periodo e non solo. Beh, veramente è il genio che scende in campo, che irrompe sulla scena. Però Rossini ha fatto qualche tentativo di indicare le cose risorgimentali. E nell'italiano in Algeri, a un certo punto, Isabella raduna tutti gli italiani schiavi di Mustafa in Algeri e devono cantare un coro in cui ci sono le parole «Quanto valgono gli italiani, al cimento si vedrà». Sembra neutrale, ma non lo è, perché che cosa fa l'orchestra mentre lui sta facendo questo col coro? Stanno suonando questa melodia. Non è uguale, ma è abbastanza vicino alla melodia del Marseillaise che va così. Era il musicologo Philippe Gosset. L'Italiana in Algeri, una delle opere più rappresentate di Rossini, contiene richiami patriottici nella rivolta degli italiani schiavi e prigionieri di Mustafa. Ma Rossini è un musicista che non si espone mai politicamente. Forse il ricordo dell'arresto e della prigionia del padre hanno segnato il suo coraggio e la sua passione civile. La sua giovanile adesione alle idee di libertà cresciute e sviluppatesi dopo la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba è breve ma appassionata. È la primavera del 1815. L'imperatore, fuggito dall'Elba, è di nuovo a Parigi. A raccontarlo lo storico Lucio Villari. I 100 giorni furono vissuti come una speranza in gran parte, per gran parte degli italiani. E fu su questa speranza che giocò Gioacchino Murat per prendere in mano lui il destino dell'Italia. E questo avvenne appunto col proclama di Rimini di Murat. E Rossini scrisse un inno, diciamo, dedicato a Murat e dedicato anche al suo progetto, nelle cui parole sono contenute proprio in germe le idee del Risorgimento italiano. Sorgi Italia, venuta è già l'ora, l'alto fato compirsi dovrà. Dallo stretto di Sicilia alla Dora, un sorregno d'Italia sarà. Del nemico alla presenza, quando l'armi impugnerà, un sorregno indipendenza. Gridi l'Italia e vincerà. L'inno del 1815, certamente un'opera spontaneamente creata sull'onda di un entusiasmo per Murat, per una istanza di libertà, no? Che circola potentemente, è una specie di tsunami intellettuale che arriva, travolge tutto e su cui Rossini sale, però insomma lui sale come il surfista sale sull'onda. Tuttavia questo non si traduceva in lui in un progetto politico. Avete sentito il musicologo Claudio Strinati. Sconfitto a Tolentino, Gioacchino Murat viene fucilato. Tutti i sogni di libertà sembrano falliti. Rossini arriva a Napoli, alla corte di Ferdinando II di Borbone, uno dei sovrani più reazionari del suo tempo. Rossini è un musicista, non un politico. Per lui non conta chi governa, conta poter lavorare. Soprattutto se il committente è il Teatro San Carlo, uno dei più importanti d'Europa, come spiega la scrittrice Gaia Servadio. Lui credo proprio guardasse attorno con gioia, vedere queste belle donne ben vestite, eleganti, pieni di gioielli che si invaghivano di lui, volevano dei pezzetti di capelli, proprio come se fosse stato, non so, Elvis Presley o Michael Jackson. E naturalmente molte se le portava a letto. Come prima opera, Rossini compone Elisabetta, regina di Inghilterra. Protagonista è il soprano Isabella Colbran, una diva dell'epoca amante, tra gli altri, dell'impresario Barbaglia, oltre che, si dice, dello stesso re. La Colbran inizia anche con Rossini un intenso rapporto artistico e sentimentale. Suonare Rossini è molto difficile, perché non basta avere una brava orchestra, ma devi avere una grande orchestra da camera, capace di ascoltare il palcoscenico, di seguirlo, di seguire il maestro e di ascoltarsi tra di loro. Soprattutto un'orchestra che dialoga col cantante, non solo che lo accompagna e lo sostiene, non è il servo del cantante. Avete sentito il direttore d'orchestra Michele Mariotti. Dopo il trionfo di Elisabetta, regina d'Inghilterra, Barbaglia affida a Rossini anche la direzione artistica del San Carlo. È un ruolo che gli permette di verificare le sue innovative idee musicali, ma soprattutto di cimentarsi in opere serie. Lo stesso anno è chiamato a Roma. Il 26 dicembre al Teatro Valle va in scena Torvaldo e Dorlisca. È un fiasco clamoroso, ma Rossini è già al lavoro per il teatro concorrente. In sole 2 settimane compone, per il Teatro Argentina, l'opera buffa Il barbiere di Siviglia. Con titolo originario Alma viva, l'opera va in scena il 20 febbraio 1816, ma la prima si trasforma in un incubo. Da un lato ci sono i sostenitori di Paisiello, che ha scritto un'opera analoga, e definiscono Rossini il signor Baccano, il signor Chiassone, il signor Crescendo. Dall'altra c'è la claque dell'impresario del Valle. Musiche e arie vengono sovrastate da fischi, boati, miagolii e continue interruzioni. Ce ne parla Ilaria Narici, della Fondazione Rossini. A proposito di questa serata in Faust, abbiamo una simpatica testimonianza di Geltrude Righetti Giorgi, prima interprete di Rosina, che racconta di essersi premurata di andare a consolare Rossini a casa sua dopo la rappresentazione e di averlo trovato invece tranquillamente dormiente a letto. Questo ci dice di un compositore che, nonostante l'accoglienza sfavorevole, era assolutamente convinto e conscio di aver scritto un capolavoro. L'elemento, diciamo, di grande differenza tra Paisiello e Rossini è che Rossini porta la storia all'interno della musica. Io amerei definirlo così, cioè dove la musica per Rossini è la cosa che conta. Molto di più che la storia, che la drammaturgia, che la psicologia dei personaggi. Era il regista Marco Carniti. Dal debutto a Venezia nel 1810 al San Moisè sono passati solo pochi anni. Rossini a 24 anni ha già composto 19 opere. Quasi 3 all'anno, un'attività intensissima con l'obbligo di creare e di scrivere rispettando gli impegni pressanti. Il 1816 si chiude al San Carlo di Napoli con Otello, che non si ispira al dramma di Shakespeare, ma ad un adattamento canadese. Il compositore Franz Schubert definirà il terzo atto assolutamente divino. Per lui, Gioachino Rossini è un genio straordinario. Quando lei sta cantando la scena del Salice, Rossini ha voluto introdurre lì una canzone del Gondoliere che canta di Dante, che fa una cosa basata sull'idea di Francesco da Rimini. E questa è una scena che era amata in tutto l'Ottocento e anche era amata da Verdi, che lo utilizzava come modello per il suo canzone di Salice nel suo Otello. Era Philippe Gosset. Neppure una settimana dopo la prima di Otello, Rossini è in viaggio per Roma. Deve lavorare ad una nuova opera che il Teatro Valle gli ha commissionato per il Carnevale. Ce ne parlano il direttore d'orchestra Michele Mariotti ed il mezzo soprano Anna Bonitatibus. In Cenerentola devi sempre danzare, un'opera dove non devi mai correre forsennatamente, soprattutto non devi mai dare idea di senso, di frenesia, di nervosismo. Anche perché ha un libretto talmente bello, un testo che correndo verrebbe sminuito, non se ne coglierebbero le varie sfumature. Subito diminuendo. Ed è pieno di momenti di una grande leggerezza, di così grande divertimento, che se diventa una corsa forsennata non uccidi il valore musicale. Chi la parte delle spille, chi la pesca delle anguille, e di tanto da ogni lato sarà sempre contornato di memoria e petizioni di galline di stagioni di... Si parla spesso delle colorature di Rossini come fossero fini a se stesse, non è affatto così. In realtà la coloratura rossiniana è soltanto una sottolineatura della preziosità della melodia, va intesa assolutamente in questo modo, ma eseguita con ardore tecnico, con passione, con spavalderia, come apparteneva quindi ai famosi castrati. Su Mix 24 con la storia di Gioachino Rossini proseguiamo subito dopo la pubblicità. Donne! Tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Mix 24. Storie di star. Milano nel 1817 è una città che pulsa di passioni libertarie e di società segrete. Rossini però finge di non vedere, evita con cura i caffè, i luoghi di ritrovo degli intellettuali, i circoli sovversivi. Per il suo disimpegno i liberali milanesi lo criticano, accusandolo di essere un cinico che si occupa solo dei suoi affari e della sua musica. La rivoluzione di Rossini è solo nelle sue note. La Gazza Ladra è un capolavoro di invenzione, un'opera semiseria che sin dal suo debutto alla Scala nel 1817 mantiene intatta la sua modernità. Rossini è certamente un personaggio complesso, complesso come complesso il suo tempo, perché vive, come tanti altri intellettuali, non solo musicisti, un tempo che è fatto di rivoluzioni e di restaurazioni, poi di nuovo di rivoluzioni e di controrestaurazioni. Quindi dove gli intellettuali sono strattonati da una parte o dall'altra. Era Vittorio Emiliano. Rossini continua a viaggiare inseguendo la sua musica, mentre il suo legame con la Colbran è sempre più intenso. Ha però avventure con altre donne e questo gli sarà fatale. È probabilmente una prostituta a trasmettergli infatti una malattia venerea. Il 5 marzo del 1818, a San Carlo, in occasione della Quaresima, debutta Mosè in Egitto, commissionata da Ferdinando I, che intende Mosè come rappresentante della regalità e della legalità. Mentre Balzac, nel suo romanzo Massimilien d'Oni, lo interpreterà invece come salvatore del popolo schiavo, e riguardo al debutto scriverà: «Mi sembra di aver assistito alla liberazione d'Italia». Ce ne parla Ilaria Narici, della Fondazione Rossini. Il coro in particolare, il coro finale del terzo atto, Dal tuo stellato soglio, è diventato un emblema del canto di liberazione, di un canto di liberazione del popolo schiavo. Tant'è che Arturo Toscanini, in occasione della riapertura della Scala alla fine del secondo conflitto mondiale, lo annoverò tra i brani eseguiti come appunto emblema di un canto di liberazione. Con Mosè in Egitto, Rossini sembra aver creato un'opera vicina ai sentimenti libertari, un richiamo di attenzione ai moti, all'ispirazione dei patrioti italiani. Ma l'amicizia del musicista con i Borboni, le protezioni politiche di cui si circonda, rendono i comportamenti del musicista contraddittori e forse ambigui. Il 2 luglio del 1820, la guarnigione di Nola, agli ordini di Michele Morelli e Giuseppe Silvati, si solleva al grido «Viva Dio Re» e «Costituzione». Guglielmo Pepe prende il comando del movimento ed il 13 luglio Ferdinando di Borbone giura fedeltà alla nuova Costituzione liberale, ispirata a quella spagnola. Nello stesso tempo, però, il re chiede aiuto all'Austria e da Vienna, Metternich non esita a mandare le sue truppe per soffocare nel sangue l'inverno liberale napoletano. Ce ne parla lo storico Lucio Villari. Quindi tutto finì in tragedia e queste cose Rossini le seppe. Insomma, lui in un certo senso anche qui ha vissuto nei confronti del Regno di Napoli una situazione di ambiguità. Da una parte si trovò a dover vedere una rivoluzione liberale in atto, ma dall'altra a dovere pure mettere in scena le sue opere in pieno regime invece di restaurazione borbonica, ammirando anzi l'iniziativa del re che sosteneva soprattutto il teatro lirico, il teatro dell'opera, eccetera. Benché abbia solo 28 anni, Rossini sembra tutt'altro che un giovane. La sua salute dà evidenti segni di affaticamento e ricompaiono le crisi di depressione ed ansia come ai tempi de La pietra del paragone. Certamente diventa un uomo pieno di paure e di fobie. Oggi forse psichicamente un bipolare che alterna momenti di depressione nera, nerissima, lunghi periodi, ad altri di maggiore serenità. Avete ascoltato il biografo Vittorio Emiliano. Il 16 marzo del 1821, Gioacchino Rossini sposa Isabella Colbran, in forma estremamente privata, nella chiesa campestre di Castenaso, vicino Bologna. Un quarto d'ora dopo le nozze, gli sposi sono già in viaggio per Vienna. Per Rossini, la tournée è un trionfo, anche se il vecchio Beethoven gli consiglia con sufficienza di lasciar perdere le opere serie per dedicarsi alle opere buffe. Rossini comunque continua anche perché tra i suoi ammiratori ci sono Hegel, Schopenhauer, Schubert e soprattutto il potente Metternich. Certamente Metternich doveva essere un uomo molto intelligente, ma certo per noi il nemico numero uno, per noi italiani. Era la scrittrice Gaia Servadio. È una sintonia totale. Rossini accetta di comporre Semiramide, organizza un grandioso spettacolo all'Arena di Verona per il Congresso dei Grandi a cui partecipano tutti i reali che rappresentano le potenze restauratrici contro Napoleone Bonaparte. I patrioti italiani non perdoneranno mai Rossini, giudicato un cinico affarista e reazionario. Rossini ormai è un musicista di fama internazionale. Nel 1823 parte per una tournée in Inghilterra. Il viaggio però segna il declino prematuro della voce della Colbran. Nonostante le prime tensioni coniugali tra i due artisti, nel 1824 sono ancora insieme a Parigi e Rossini è accolto come un re. Il Théâtre Italien fin qui ha ospitato repliche di opere già andate in scena in Italia. Rossini, invece, decide di aprirlo ad una prima. Il Viaggio a Reims, composto in occasione della incoronazione del re Carlo X nel 1825. Approfittando dell'unificazione delle amministrazioni dell'Accademia Royale e del Théâtre Italien, Rossini crea un coro stabile, allarga l'organico dell'orchestra e potenzia il corpo di ballo. Per la prima volta, per gli allestimenti, viene chiamato un regista della Comédie Française. Nascono le prime regie operistiche moderne, come spiega il musicologo Damien Colas. Rossini è un uomo estremamente prudente. Arriva sulla scena dell'Académie Royale de Musique e comincia a comporre. Però sa che deve adattarsi a un sistema non soltanto di organizzazione e di produzione, ma anche un sistema poetico completamente diverso da quello che conosce. E deve trasformare lentamente il suo stile per adattarsi al gusto francese. Lui fa una specie di arricchimento e allungamento delle opere napoletane. Comincia col Maometto II, che diventa Le Siège de Corinth nel 1826. È un trionfo e il successo si replica l'anno dopo con Muase Faraon. Ce ne parla il mezzo soprano Anna Bonitatibus. Luisa è un'opera che con grandi scene, con grandi balli, grandi cori, quindi un'opera decisamente enorme, grande, che forse non si attribuirebbe facilmente a un Gioacchino Rossini. È un'opera monumentale, senza la quale probabilmente Verdi non avrebbe potuto avere accesso a certi colori. Durante le prove del Mosè arriva la notizia della morte della madre di Rossini. Per non turbare il compositore, nessuno lo avvisa. La madre, del resto, è stata sempre una donna molto presente nella vita di Rossini. Protettrice, dispensatrice premurosa di consigli, è stata lei a far conoscere al figlio la musica, così come è stata lei a fargli apprezzare l'aria del palcoscenico. Dopo la morte della madre, Rossini compone ancora Le Conte Henri e nel 1929 il Guglielmo Tell, opera creativamente molto sofferta. Ma Rossini è anche un abile mercante di se stesso. Rinvia più volte la consegna della partitura finita, finché l'amministrazione reale non gli riconosce il dovuto vitalizio di 6.000 franchi annui. Ce ne parlano Bruno Cagli e Philippe Gosset. Rossini tenta di adeguarsi ai tempi, ma ci si adegua a modo suo. Cioè la drammaturgia faceva un certo tipo di progresso, la scrittura musicale cambiava. Rossini ha voluto fare una summa della sua esperienza nell'opera seria soprattutto. Guglielmo Tell viene recepito da Bellini come fonte di magistero. Dice l'opera a cui tutti facciamo riferimento. Donizetti sembra abbia detto, dice, Rossini ha scritto tre atti del Guglielmo Tell, mentre il secondo atto l'ha scritto Dio. E il testo originale francese è molto bello. Lui conclude l'opera con queste parole: Liberté, redescend des cieux, et que ton règne recommence. Liberté, redescend des cieux. Non hanno mai sentito queste parole in Italia, perché la parola liberté non era concesso dalle censure. Sulla vita e l'arte di Gioacchino Rossini pesano ancora oggi intrighi, misteri e contraddizioni, dicerie e pettegolezzi. Lo accusano di pigrizia, eppure ha scritto 39 opere, numerose cantate e composizioni sacre. Rossini sarebbe un creatore di opere buffe e invece ha composto soprattutto opere serie. Tante favole, una sola verità. A soli 37 anni Rossini smette di scrivere per il teatro. Crisi di identità, estraneità al nuovo contesto culturale del romanticismo emergente, fragilità psichica, un rifiuto totale al confronto con impresari, critici e cantanti, tutte ipotesi fantasiose al fronte di una sola certezza. Rossini abbandona Parigi portando con sé un libretto del Faust. Il 16 agosto 1829 Rossini torna con la Colbran in Italia. Durante la bella stagione vivono nella loro proprietà di Castenaso, nei pressi di Bologna. D'inverno invece in città, dove Rossini si occupa del liceo musicale e dell'Accademia Filarmonica. I rapporti con la moglie sono sempre più tesi. Senza più voce per cantare, senza più l'amore del marito che le ha trasmesso la gonorrea impedendogli così di avere figli, la Colbran cerca consolazione nel bere, nel gioco d'azzardo e in una vita sempre più dispendiosa. Dopo un anno, Rossini affida la moglie al padre e torna a Parigi. Il re Luigi Filippo I non vuole più riconoscergli il vitalizio, ma il vero motivo del viaggio è fuggire da una situazione familiare sempre più difficile. A Parigi Rossini ritrova la cortigiana Olympe Pellissier. Il loro legame si trasforma ben presto in una vera e propria relazione sentimentale, come spiega la scrittrice Gaia Servadio. Olympe era certamente una donna molto interessante, una donna anche pratica, stata all'amante di Balzac, o di mezza Parigi. Aveva una tavola d'azzardo, di giochi d'azzardo, quindi lei aveva un salotto un po' louche. Veniva sdobbata. Per lei sposare Rossini diventa un fatto di riconoscimento sociale e di stabilità. Tra crisi depressive trascorre un decennio in cui Rossini non compone quasi più nulla. Solo nel 1841, per evitare che venga pubblicato un apocrifo con il suo nome, Rossini completa lo Stabat Mater che aveva scritto con l'amico Tadolini. Il 7 gennaio 1842 lo Stabat Mater viene eseguito nel nuovo Théâtre Italien. È un trionfo, ma non senza critiche. Qualcuno sottolinea il tono più operistico che rituale. Nel 1846, con il nome di Pio IX, sale sul trono di pietro Giovanni Mastai Ferretti, un uomo di fede e di grandi aperture. Tra le prime azioni del Papa, l'amnistia ai prigionieri politici, una serie di riforme di spirito liberale e la concessione della libertà di stampa. Pio IX fu celebrato, visto, ammirato e sostenuto come quel Papa che avrebbe, primo sovrano in Italia, portato la libertà agli italiani e portato, agli italiani i valori anche dei diritti civili e costituzionali. Simbolo dell'attenzione che Rossini prestò a questa svolta singolare che prese Pio IX diventando un papa liberale è che lui scrisse appunto un inno in cui inneggiava agli unici due sovrani di quel tempo, il papa e il re Carlo Alberto di Sardegna, che avevano avuto il coraggio di promulgare una Costituzione liberale. Però fu un fuoco liberale di breve durata, perché il Papa fece marcia indietro, deludendo coloro che avevano sperato in lui. A Firenze, dove si è rifugiato con la seconda moglie, Olympe Pellissier, Rossini è afflitto da una depressione cronica. Non riesce a lavorare, si trasferisce a Bologna, ma lo sconforto e l'ipocondria sembrano ancora più totali. Tenta inutilmente ogni cura e ricorre anche a chiromanti e fattucchiere. Poi, a 63 anni, Rossini lascia definitivamente Bologna e l'Italia. È il 26 aprile del 1855. Mentre Parigi è una città in pieno sviluppo e modernizzazione, a 63 anni Rossini è un vecchio sofferente che ha in odio ogni progresso tecnologico. Insieme alla moglie Rossini si trasferisce in un grande appartamento all'angolo con Boulevard des Italiens. Le attenzioni e l'amore della moglie lo aiutano a trovare una via d'uscita dalla depressione. L'inverno lo trascorre in città ed estate si trasferisce vicino al Bois de Boulogne. Finalmente, dopo 2 anni, riprende lentamente a comporre. Ce ne parla Damien Colas. Tutta la produzione di Rossini, dopo il suo ritiro dalla scena pubblica, è una musica completamente opposta al romanticismo e che in qualche modo può anche prefigurare il futurismo del Novecento. Le notizie sulle imprese di Garibaldi e l'unificazione d'Italia arrivano a Rossini dalla lettura degli articoli di Alexandre Dumas. Per lui, quel 1860, così importante per la patria, rimane soprattutto segnato dall'incontro con Richard Wagner. Due giganti della musica, due musicisti agli antipodi. Uno ha 47 anni, l'altro 67. Il primo vive appartato ed ozioso, l'altro scalpita per il successo. Quando si incontrano, nel marzo del 1860, a Parigi, Wagner lo incalza per sapere perché non componga più e non scriva ancora. La risposta di Rossini: «Non compongo più perché ormai ho raggiunto un'età in cui si è più inclini a decomporsi». Ma in realtà, pezzo dopo pezzo, preludio dopo preludio, Rossini compone il suo ultimo capolavoro, La Petite Messe Solennelle. Rossini muore venerdì 13 novembre 1868. Il feretro, seguito da oltre 40.000 persone, viene tumulato nel cimitero di Père Lachaise, vicino alle tombe di Chopin e Bellini. Solo 30 anni dopo, la sua salma viene traslata a Firenze, in Santa Croce.